Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Tel Aviv, 14 maggio 1948. È un momento storico per il mondo intero, uno di quei momenti che segnerà il corso della storia contemporanea. Il leader del movimento sionista, David Ben-Gurion, legge la dichiarazione di nascita dello Stato di Israele. Facciamo appello al popolo ebraico, dovunque nella diaspora, affinché si raccolga intorno alla comunità ebraica di Eretz Israel e la sostenga nello sforzo dell'immigrazione e della costruzione, e la assista nella grande impresa per la realizzazione dell'antica aspirazione, la redenzione di Israele. Confidando nell'Onnipotente, noi firmiamo questa dichiarazione in questa sessione del Consiglio di Stato provvisorio, sul suolo della patria, nella città di Tel Aviv oggi, vigilia di sabato 5 Iyar 5708, 14 maggio 1948. Nei territori dell'ex colonia inglese della Palestina, che le truppe di Sua Maestà abbandonano definitivamente il giorno dopo, il 15 maggio, sorge quello Stato ebraico tanto desiderato e fortemente voluto dagli ebrei di tutto il mondo, per anni. Una decisione controversa, non priva di polemiche, preceduta da tragiche manifestazioni di dissenso da parte delle popolazioni arabe che occupavano da secoli quei territori e seguita da strascichi drammatici. Il 29 novembre dell'anno prima, il 1947, l'ONU approva una risoluzione che prevede la divisione della Palestina in due stati, uno arabo e uno ebraico. Per diversi motivi, la frettolosa decisione dell'ONU scontenta entrambe le parti. Egypt? No. Egitto? No. Soviet Union? Unione Sovietica? Yes. Sì. United Kingdom? Regno Unito? Abstain? Astenuto. United States? Stati Uniti? Yes. Sì. La risoluzione si considera approvata dalle Nazioni Unite con 33 voti a favore, 13 contrari e 10 astenuti. Per sei lunghi mesi, cruenti episodi di guerriglia si susseguono da entrambe le parti, lasciando intendere che un compromesso pacifico rimarrà un lontano miraggio. Il 9 aprile del 1948, poco prima della dichiarazione di indipendenza, si verifica uno dei più spaventosi massacri di questa terribile guerriglia. Alcuni membri dell'Irgun, un gruppo militante sionista attivo già ai tempi della colonia britannica e da essa bollato come organizzazione terroristica, si rende protagonista di uno spaventoso episodio di pulizia etnica, cancellando letteralmente dal paesaggio il villaggio di Deir Yassin. Case, persone, persino le lapidi del cimitero vengono rimosse dalla faccia della terra e dalla memoria. Un dramma impossibile da dimenticare, come ricorda una delle pochissime donne sopravvissute al massacro. Ho provato in tutti i modi a dimenticare ciò che è accaduto quel giorno a Deir Yassin. Non riesco a non pensarci, a non rivivere come se fosse oggi quei momenti spaventosi. È solo uno dei tanti cruenti episodi di violenza che si verificano da una parte e dall'altra e che scavano nella memoria dei due popoli dei solchi impossibili da cancellare. La superficialità delle Nazioni Unite, la fretta di trovare una soluzione alla pur legittima questione ebraica, genera una polveriera inarrestabile. Sei settimane dopo il massacro di Deir Yassin, nasce Israele. Il giorno dopo, gli stati arabi circostanti, che non accettano il nuovo ingombrante vicino, attaccano. Ed è già guerra. La cosiddetta questione palestinese, che nasce in quei giorni, è spinosa e intricata, ma non è il nostro argomento di oggi. Ci serve semplicemente per capire come lo Stato di Israele nasca sotto il segno della sofferenza e del dolore. Sentimenti che il popolo ebraico, purtroppo, conosce molto bene. Solo pochissimi anni prima, la Shoah, l'Olocausto, ha distrutto la vita di milioni di ebrei, umiliato il fortissimo spirito unitario di un popolo che negli anni ha sempre subito ingiustizie e assurde persecuzioni. La soluzione finale di Hitler, lo sterminio sistematico degli ebrei, sono un fardello con cui il neonato Stato israeliano non può non fare i conti. L'atteggiamento del mondo intero, della comunità internazionale nel dopoguerra, davanti allo spettro e al ricordo ancora incandescente dell'Olocausto, è di imbarazzata indifferenza. In Israele matura la consapevolezza che un'eventuale caccia ai criminali nazisti responsabili delle atrocità della Shoah, oltre ad essere giusta sul piano etico e giuridico, potrebbe rivelarsi in qualche modo utile per ricordare al mondo intero le proporzioni di ciò che era accaduto. Così, mentre il Medio Oriente brucia a causa della questione israelo-palestinese, il primo governo israeliano, che vede Ben Gurion primo ministro, i servizi segreti del Mossad e il centro di documentazione ebraica di Linz, si muovono per rintracciare i responsabili dell'ignobile carneficina. Proprio a Linz, in quel gruppo di studiosi volontari che setacciano i documenti e il mondo in cerca di nazisti, si trovano la chiave di questa operazione e il nostro primo personaggio di oggi. Si chiama Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal. Amcha is for me one of... Il mio nome è Simon Wiesenthal. Dirigo il centro di documentazione ebraica di Linz. Dal giorno in cui sono stato liberato dal campo di concentramento, ho dedicato tutta la mia vita a rintracciare i responsabili di tali crimini. Quel giorno, quello della liberazione, è il 5 maggio 1945. Wiesenthal si trova a Mauthausen. Da 4 anni è prigioniero dei lager nazisti. Ne ha girati diversi, ben 13. Quando quella mattina di maggio i carri armati alleati entrano a Mauthausen, possono vedere con i propri occhi una scena terrificante, forse l'immagine più simile all'inferno che si possa trovare in terra, come riportato dalla commossa testimonianza di Robert Patton, uno dei soldati americani che per primi hanno varcato la soglia infernale di quei cancelli. Quando abbiamo oltrepassato la porta d'ingresso del campo, abbiamo visto una scena che non ci saremmo mai aspettati e che non dimenticherò mai. C'erano migliaia di persone, ma sembravano più scheletri, erano nudi, in piedi, sporchi, puzzavano e ci guardavano come se i loro occhi provenissero da un altro mondo. Penso che fu in quel momento che noi americani capimmo bene il perché stessimo combattendo quella guerra. Tra quegli esseri umani annichiliti nel fisico e nell'anima c'è anche Simon Wiesenthal. Scopriamo insieme chi è. Simon Wiesenthal nasce il 31 dicembre del 1908 in una piccola cittadina in Galizia, una regione che prima della guerra apparteneva alla Polonia e che ora fa parte dell'Ucraina. La sua è una famiglia molto poco abbiente, che investe tutto ciò che ha negli studi del piccolo Simon, intelligenza precoce e vivace. Così a metà degli anni 20 si iscrive alla facoltà di architettura dell'Università di Praga, perché notoriamente più aperta nei confronti degli studenti ebrei. Si laurea nel 1933 e fa ritorno in Polonia, nella città di Lwów. Qui si sposa con Sila Müller, che sarà la sua compagna di tutta la vita. Si chiude in questo modo la prima parentesi felice della vita di Simon Wiesenthal. Le atrocità della storia, con i loro vorticosi rivolgimenti, si stanno per abbattere sulla Polonia e su di lui. È il 1938. L'armata rossa di Stalin invade la Polonia e invade Lwów. I sovietici non sono certo molto teneri con gli ebrei e impongono loro i lavori forzati. Simon deve abbandonare la professione di architetto e fare l'operaio per evitare la deportazione in Siberia. Il peggio però si ha 3 anni dopo. Nel 1941 le truppe del Reich invadono l'Unione Sovietica e la città polacca in cui si trova Wiesenthal cade in mano ai nazisti, che sono ben altro tipo di carnefice. La famiglia Wiesenthal viene prima rinchiusa nel ghetto. Poi arriva la deportazione nei campi di concentramento. La moglie si salva, essendo alta e bionda, e grazie a documenti falsi forniteli dalla resistenza polacca, riesce a tenere nascoste le proprie origini. Simon, invece, inizia la sua infernale peregrinazione. Il giovane architetto polacco, che sognava una vita tranquilla e felice, si trova, come altri milioni di ebrei, catapultato in un incubo. Prima il viaggio terrificante sui vagoni merci che portano come bestie gli ebrei verso il teatro delle loro sofferenze. L'odore acre dei corpi ammassati e scossi dalla paura. Poi la colonna ordinata e silente, uomini e donne che marciano verso un cancello. Arbeit macht frei, c'è scritto. Il lavoro rende liberi. Un suggello ironico sulla follia collettiva che travolgerà persone innocenti, umiliandole nello spirito prima ancora che nel corpo. Nel gelo dell'inverno polacco, Simon Wiesenthal entra nel campo di concentramento di Auschwitz, prima tappa della sua Via Crucis. 13 lunghe stazioni, lungo le quali però Simon riesce a fare la cosa più importante: sopravvivere. Nel 1945 Wiesenthal arriva a Mauthausen. Qui anche un uomo forte come lui comprende che sarà difficile uscirne vivi, come ricorda Prem Dobiash, un altro sopravvissuto che ha condiviso con Wiesenthal quella terribile esperienza. Tra di noi c'era la convinzione che un prigioniero ebreo non potesse sopravvivere più di 2-3 settimane a Mauthausen. La maggior parte di noi veniva spedita a lavorare nella cava di granito e molti morivano là o venivano ammazzati quando tornavano al campo. Solo nel 1945 più di 100.000 prigionieri muoiono a Mauthausen, nelle camere a gas oppure uccisi dalla fame, dalle violenze o dalle malattie. In 18.000 arrivano al 5 maggio 1945. I cingolati americani arrivano alle porte di Mauthausen. I soldati nazisti hanno abbandonato il campo da qualche giorno, uccidendo nella smobilitazione generale quanti più prigionieri hanno potuto. I superstiti vengono abbandonati a loro stessi, a un destino potenzialmente ancora più atroce. Non riescono a muoversi, non hanno la forza di camminare, non hanno cibo, non hanno nulla, attendono che arrivi qualcuno, più probabilmente la morte. Poi quel cancello maledetto si apre e arrivano gli americani, esterrefatti. Il giorno che sono stato liberato non riuscivo a camminare. Ero chiuso nella mia baracca, ma volevo vedere il sole e i carri armati americani. Volevo guardare la bandiera a stelle e strisce. Quando riuscii a trascinarmi fuori, pensai che ogni stella avesse un significato: giustizia, amicizia, cultura. E le strisce, quelle sono la via verso la libertà. Tra i soldati americani ce n'è uno in particolare che ricorda Simon Wiesenthal, il colonnello Richard Seibel. Simon Wiesenthal era molto magro e maciato. Quando lo incontrai, mi disse che era stato prigioniero in molti campi di concentramento. Provai a parlargli, mi ricordo, come per ristabilire un contatto tra lui e il mondo reale da cui si era estraniato. Mi chiesero: «Lei è architetto?» «Sì», risposi. «Ok», mi dissero, «la manderemo in un sanatorio a curarsi e poi tornerà a casa e ricomincerà a costruire case». E io risposi: «Costruire case? Davvero lei pensa che uno possa riprendere la propria vita dal punto in cui è stata interrotta? Noi abbiamo perduto tutto, non solo i nostri cari e i nostri beni, noi abbiamo perduto ogni speranza». La vita per chi sopravvive all'abominio dei lager non può certo tornare ad essere la stessa, ma si devono trovare le ragioni per andare avanti, per voltare pagina e per quanto possibile proseguire. Proprio nei primi mesi dopo il conflitto, i primi mesi da uomo libero, Simon Wiesenthal capisce che uno degli scopi della sua vita può diventare la ricerca della giustizia, che non è sete di vendetta. È solo il legittimo desiderio che gli autori di un crimine così infame, così crudelmente organizzato, rispondano di ciò che hanno fatto davanti agli occhi del mondo. Subito dopo la liberazione, cominciai a frequentare un gruppo di sopravvissuti che si occupava proprio dei crimini di guerra. Volevo collaborare con loro, visto che sapevo un sacco di cose. Mi chiesero di iniziare a scrivere tutto quello che ricordavo. Mentre nei territori dell'ex colonia inglese della Palestina nasce il nuovo Stato di Israele, mentre la comunità internazionale continua a mostrare uno squallido scetticismo verso quanto si comincia a scoprire dei campi di sterminio, Simon Wiesenthal inizia a scrivere dettagliatamente le sue memorie. Inizia a comporre il testo chiave di quella che diventerà la caccia ai nazisti portata avanti al neonato Stato di Israele. E in queste memorie, in questo viaggio nel profondo di un dolore incommensurabile, iniziano a prendere forma delle figure, volti, corpi di uomini che si sono dati anima e corpo alla causa di questa carneficina immane. Guardie carcerarie, aguzzini, ufficiali della Gestapo. In tutto sono 91 i nomi che Wiesenthal riesce a far emergere dai propri ricordi. Nomi che Simon consegna prontamente agli americani, i quali dopo un'iniziale riluttanza imbastiscono i primi processi contro i nazisti. Ein neuer Gerichtstag in Nürnberg. Eine neue Tagesordnung. Ein neuer Schritt zur Klärung und Entscheidung. C'è un volto, però, un uomo che sembra emergere con più chiarezza e più nitore dai ricordi di Wiesenthal. Un uomo che in quei 91 occupa un posto di spicco perché forse è l'uomo più importante per la formazione di quella ghiacciante filosofia che sta dietro la Shoah. Wiesenthal si ricorda di averlo incontrato un paio di volte durante la prigionia. Un individuo basso, dallo sguardo vivace, il volto magro, il naso adunco. Un uomo dall'aria apparentemente per bene, quasi rassicurante. Un inganno. Dietro quell'aspetto si cela il vero teorico dei campi di concentramento, il ragioniere dell'Olocausto, un folle burattinaio che ha deciso per anni della vita e della morte di migliaia di uomini e di donne. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann. Wiesenthal capisce benissimo, attraverso quei ricordi, che la sua caccia potrà dirsi conclusa solo quando Eichmann sarà portato davanti allo sguardo del mondo. Israele appena nato e Ben Gurion, che si trova a governare il nuovo Stato, capiscono che solo attraverso il processo al terribile Eichmann si potrà giungere al pieno riconoscimento internazionale della tragedia della Shoah. Il Red Rationem deve diventare evento mediatico, ma Eichmann non si trova, è letteralmente sparito. La caccia ha inizio. Travel is searching, and home what's been found. I'm not stopping. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati si racconta una caccia condotta in nome della giustizia. Il cacciatore è Simon Wiesenthal, che, supportato dall'apparato politico del neonato Stato di Israele, insegue criminali nazisti responsabili del genocidio che l'ha segnato per sempre. Simon è stato 4 anni nei campi di concentramento, ha visto l'inferno e non si darà pace fino a quando non avrà consegnato alla giustizia i responsabili. Uno in particolare, colui che ha progettato nei minimi dettagli la soluzione finale. Si chiama Adolf Eichmann. Vediamo chi è. Adolf Karl Eichmann e Maria Schäferling sono i nomi dei genitori dell'angelo della morte. Quando nel 1906 mettono al mondo il loro unico figlio, non possono certo immaginare che quello che ha appena visto la luce sarà uno dei più lucidi criminali di massa della storia. Infatti in quegli anni la famiglia Eichmann è una famiglia felice, nonostante l'arrivo della Prima Guerra Mondiale, in cui il padre presta servizio nell'esercito austro-ungarico. Nel dopoguerra la famiglia Eichmann vive a Linz, ma si trova per lavoro spesso in Germania. E la Germania vicina non è un paese felice negli anni 20. Al tavolo delle trattative di Versailles le sono state addossate le intere riparazioni di guerra. L'inflazione giunge a livelli vertiginosi, il marco non vale praticamente più nulla e la società finisce per essere squassata da conflitti, rancori, tensioni e risentimenti. Negli anni 20, Adolf Eichmann assorbe, come molti giovani di quel periodo, tutto il disagio che si respira nella società. Questo va a saldarsi con una personalità che improvvisamente si è manifestata come inquieta e turbolenta. Abbandona la scuola e non completa gli studi. Si iscrive a un corso per diventare meccanico, ma abbandona anche quello. Poco più che ventenne, nonostante non riesca a capire cosa fare della propria vita, evidenzia una dote fondamentale. Sa parlare benissimo in pubblico. Ha delle doti oratorie fenomenali e tutte naturali, vista la scarsa attitudine allo studio. Il primo settore in cui le mette a frutto è quello commerciale. Eichmann trova dapprima impiego come agente commerciale presso la Oberösterreichische Elektrobau AG, una delle principali aziende elettriche dell'Austria. Poi passa a lavorare come agente distrettuale per la Vacuum Oil Company AG, una sussidiaria dell'americana Standard Oil. Nel 1933 dall'Austria si trasferisce in Germania e lì purtroppo incontra la politica. Per caso Adolf Eichmann capita a un comizio del Partito Nazionalsocialista tedesco e rimane affascinato da quell'ambiguo e carismatico capopopolo che arringa la folla e infiamma con esternazioni populistiche gli animi dei presenti. Qualcosa irrimediabilmente lo attrae. proprio lui, che alla politica non si era mai particolarmente interessato. Anche grazie all'intercessione di un amico di famiglia, Ernst Kaltenbrunner, che ha un posto di rilievo nelle SS, alla fine del 1933 Eichmann entra negli Schutzstaffeln, la famigerata unità paramilitare del partito nazista. È il primo passo verso l'orrore, è il primo gradino che questo arrampicatore sociale si trova a salire. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. Nei primi anni di militanza nelle SS è un libro a cambiare la vita di Eichmann. Proprio un libro, sì, uno di quelli che a Berlino l'elite del suo partito ha bruciato il 10 maggio del 1933, con disprezzo totale della cultura e dell'umanità. Il libro si chiama Lo Stato Ebraico. L'autore è Theodor Herzl, uno dei teorici del sionismo politico. Il sionismo politico è un movimento sovranazionale nato alla fine del 1800 per opera di alcuni intellettuali ebrei che ritengono giunto il momento propizio per la nascita di uno Stato ebraico in Palestina e che passano dalle parole ai fatti, finanziando in buona sostanza la migrazione di migliaia di coloni che con fondi notevoli si trasferiscono in Terra Santa e iniziano a edificare il loro Stato tra lo sbigottimento degli arabi che lì in quelle zone vivevano serenamente da oltre un millennio. Un testo chiave, naturalmente, per Ben Gurion e i padri fondatori dello Stato di Israele. Eichmann rimane affascinato e turbato dalla lettura del libro di Herzl. In particolare c'è un concetto che va formandosi nella sua mente. Se riuscisse a documentarsi così bene sul nemico, se diventasse una sorta di esperto in questioni ebraiche, potrebbe garantire una consulenza determinante per dare spessore all'antisemitismo del regime nazista. E questo potrebbe aiutarlo a fare carriera. Un pensiero folle, pazzesco, che lo spinge però a leggere e a documentarsi e a fare di tutto per mettere in atto il suo piano. Wilhelm Hottel, ufficiale dell'SS pentito, ai tempi vicino ad Eichmann, lo ricorda così. Il suo maggiore desiderio era che Hitler lo ricevesse e lo ringraziasse. Era una sorta di ossessione per lui. Voleva che lo ringraziasse per il suo operato. Questo non si sarebbe mai avverato e lui ne rimase sempre ferito. È il Führer che vi parla. Dapprima ridevano tutti questi ebrei. Pensavano che fosse uno scherzo. Oggi non ridono più. Sanno che la faccenda è più che mai seria. Nel 1937 Eichmann si reca in Palestina, dove sotto copertura visita Haifa e diversi kibbutz, prima di essere scoperto dagli inglesi ed espulso come spia. Nel 1938, in seguito all'Anschluss, ovvero l'annessione dell'Austria alla Germania, si rende necessario provvedere all'espulsione degli ebrei austriaci dal nuovo territorio del Reich. Eichmann si fa avanti, vuole far notare le proprie qualità al comando superiore delle SS. Propone un piano metodico e scrupoloso, in base al quale gli ebrei vengono sistematicamente spogliati di ogni avere e costretti ad abbandonare precipitosamente il paese per tentare di salvarsi. Eichmann dirà con orgoglio di aver fatto trottare i signorini. Oltre 50.000 ebrei abbandonano l'Austria. Eichmann viene promosso ufficiale delle SS. In breve diviene l'esperto del regime degli spostamenti di massa degli ebrei. Si crea un vero e proprio modello Eichmann per la logistica del genocidio. Viene istituito addirittura un ufficio, l'ufficio centrale per l'immigrazione ebraica, la cui direzione gli viene immediatamente affidata. Eichmann fa carriera. Nel 1939 è a Praga per provvedere alla immigrazione forzata degli ebrei dalla Cecoslovacchia appena invasa da Hitler. Qui introduce una variante nel suo sistema. Crea dei nuovi ghetti, in cui ammassare la popolazione ebraica, ormai rifiutata anche per questioni numeriche, dagli stati confinanti. Eichmann risolve il problema stipando gli ebrei in quartieri deputati ad accoglierli e li confina in queste zone. È la prova generale della soluzione finale, stabilita nel 1942 durante la conferenza di Wannsee. Treni e convogli da tutta l'Europa confluiscono nei campi di concentramento. Eichmann è il responsabile di tutte le deportazioni. Coordina e dirige il traffico dei convogli che transitano da Auschwitz. Rendiconta con scrupolo il numero degli ebrei che si potrebbe arrivare a uccidere, quantificato in 11 milioni. In questo, fino alla fine del conflitto, Eichmann con spietata lucidità diventa il vero motore del genocidio, come conferma lo stesso Simon Wiesenthal. Ha avuto un ruolo determinante per la riuscita del sistema dei lager. Calcolava tutto nei minimi dettagli, con precisione scrupolosa. Gli impartivano degli ordini e lui con zelo li eseguiva, pensando al modo più efficace di realizzare i piani. Il problema è che erano tutti ordini di morte. In uno dei frequenti sopralluoghi ai lager, Wiesenthal ed Eichmann si vedono. Probabilmente l'ufficiale tedesco non si ricorda del volto di colui che gli darà una caccia spietata. È solo uno delle migliaia di volti di ebrei straziati dalla sofferenza che ha incontrato e guardato con indifferenza. Al contrario, Wiesenthal osserva bene quell'uomo. Lo studia, lo scruta, non lo dimentica. Nemmeno quando la guerra finisce e Eichmann si salva e sparisce. Quando Simon compila la sua lista di 91 criminali nazisti da assicurare alla giustizia, Eichmann è in cima. Con l'aiuto del Mossad, i servizi segreti israeliani, per mari e per monti, parte la caccia. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati si racconta della caccia che Simon Wiesenthal e i servizi segreti israeliani danno a uno degli uomini più determinanti del regime nazista, Adolf Eichmann, colui che ha gestito nei minimi dettagli l'organizzazione logistica della soluzione finale, con una meticolosità folle e implacabile. Dal 1945, dalla fine della guerra, è sparito. È in cima alla lista dei ricercati, ma sembra impossibile da trovare. Che fine fa Adolf Eichmann alla fine della guerra? Per prima cosa, semplicemente, fugge. Lo fa attraverso i boschi dell'Austria, come un fuggitivo qualunque. Giunge in un campo di sfollati e si mescola ad altri profughi e prigionieri di guerra. Non ha documenti e riesce a tenere celata alle truppe alleate che lo perquisiscono la sua vera identità. Viene sistemato in un campo profughi e fugge di nuovo. Inizia una vita nomade in Austria, con nomi falsi, identità false. Si dice finisca a fare l'allevatore di polli. Quando al processo di Norimberga, però, viene fatto il suo nome, quando Simon Wiesenthal e Israele cominciano a dare la caccia ai latitanti nazisti, Eichmann cambia continente. Si sposta in Argentina e cerca di ricominciare una vita. Buenos Aires, 1950. Riccardo Clement è il nuovo nome di Adolf Eichmann, che ha anche un nuovo lavoro, l'idrologo, in cui non è però molto efficiente, come ricorda Heinz Luhr, il capo di Eichmann in Argentina. Era impreciso, approssimativo. Segnalava livelli d'acqua incompatibili con le condizioni meteorologiche locali. Non aveva nessun talento organizzativo, in realtà. Alcune domande sul suo passato rimasero senza risposta. Era molto diffidente, ma non appariva mai turbato. Ciò nonostante, la vita di Eichmann scorre tranquilla, con moglie e figli a Buenos Aires. Tra Gerusalemme, Tel Aviv e l'Europa, Simon Wiesenthal invece non riesce a ricostruirsi un futuro e a gettarsi il passato alle spalle. Nella sua caccia, il suo obiettivo principale è proprio Eichmann. Mentre i servizi speciali del Mossad setacciano il mondo cercando di scovarlo, il ragioniere dell'Olocausto vive la sua tranquilla esistenza come un qualsiasi impiegato sudamericano. Fino a quando, però, alla fine degli anni 50, il destino non si mette di traverso. Zvi Aharoni, nel 1959, è un agente del Mossad. Il suo comandante riceve una telefonata. È stata fatta una segnalazione da un ebreo che è stato nei campi di concentramento e che vive ora in un quartiere periferico di Buenos Aires. Ci sarebbe un individuo sospetto, che potrebbe essere un ex ufficiale nazista. L'ha riconosciuto, ma non è sicuro e non ne ricorda il nome. Simon Wiesenthal ha studiato i suoi appunti e le sue ricerche. Secondo quanto ha ricostruito, potrebbe trattarsi di Eichmann. Aroni parte per Buenos Aires. Le prime indagini mi portarono nel quartiere di Chacabuco. Volevo osservare l'abitazione e vedere chi ci viveva, ma mi resi subito conto che la casa non era abitata. Gli imbianchini dipingevano i muri e nessuna traccia di Eichmann. Eichmann ha traslocato 2 settimane prima. Interrogando un vicino, però, la gente scopre che l'uomo che pensa possa essere Eichmann si è trasferito nella città di San Lorenzo. Vi si reca e si apposta nei pressi dell'abitazione. Annota ogni particolare, età, corporatura, segni particolari. Manda tutto a Wiesenthal. La risposta non lascia dubbi. È Adolf Eichmann. Wiesenthal, però, chiede delle foto per avere la conferma definitiva. Insegnai ad una persona del posto come azionare la macchina fotografica che avevo inserito nella borsa. Dopo aver fatto sufficiente pratica, una domenica mattina andammo davanti alla casa del sospettato. Aspettammo ad una distanza di 200-300 metri, finché non vedemmo Eichmann uscire e andare verso la rimessa. Volevo essere sicuro di riprenderlo nel cortile. Il mio uomo lo avvicinò, lo incontrò e fece 4 istantanee perfette. Le foto arrivano in Israele. Dopo il via libera di Wiesenthal, scatta l'operazione Eichmann. Taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Aprile 1960. 11 uomini del Mossad giungono a Buenos Aires. Hanno passaporti falsi, appartamenti d'appoggio e veicoli per la fuga. Simon Wiesenthal segue le operazioni a distanza. Ancora svia Aroni. Guida la squadra. Tornava sempre a casa in autobus e noi lo seguivamo tutte le sere. Stabilimmo che la cosa migliore sarebbe stata prenderlo davanti a casa. Via Garibaldi, fuori da casa Eichmann, 11 maggio 1960. C'eravamo appostati lì dove ogni sera Eichmann passava, sceso dall'autobus. Eravamo nervosi perché quella sera Eichmann aveva preso il bus successivo. Poi scese da un altro bus, alle 20:15. Io lo vidi per primo. Eichmann cammina verso l'imboscata. Ha una mano in tasca. Gli uomini del Mossad temono che possa essere armato. Uno di loro improvvisamente esce e lo blocca. Eichmann, in una frazione di secondo, capisce e tenta la fuga. Aroni lo rincorre e lo atterra in un fossato a circa 300 metri da casa sua. Lo caricammo rapidamente sul furgone e ce l'avevamo fatta. Eichmann viene interrogato in un appartamento nascosto di Buenos Aires. Dopo diverse domande, dopo discussioni e tentativi di menzogna da parte dell'uomo che si faceva chiamare Riccardo Clement, arriva la missione. Chiara. Io sono Adolf Eichmann. Gerusalemme, gennaio 1961. Una folla numerosa assiste a un processo che Ben Gurion ha trasformato in evento mediatico, il processo Eichmann. A 14 anni dal processo di Norimberga si riaccendono le luci sulla tragedia dell'Olocausto. Tra quella folla, Simon Wiesenthal, l'artefice della cattura del criminale nazista. Alla sbarra, quell'uomo che aveva contribuito a rovinare la sua vita e a distruggere quella di 6 milioni di ebrei. Dopo che lei, signor Presidente, mi ha chiesto di dare una risposta chiara, devo dire che considero lo sterminio degli ebrei come uno dei maggiori crimini della storia dell'umanità. Ho avuto la sfortuna di essere coinvolto in quell'orrore, ma non per mia volontà. Sono stato costretto. Queste le dichiarazioni di Eichmann in aula. Questa la sua linea di difesa. Ho eseguito gli ordini, non avevo scelta. In aula però, sempre grazie alle indagini di Wiesenthal, spunta un nastro. Datato 1949, prima della fuga in Sud America, autentico, è stato recuperato grazie a un amico di Eichmann che ha deciso però di tradirlo. Se mi fosse stato dato incarico di comandare un campo di concentramento, non avrei agito diversamente dagli altri. Se mi avessero dato l'ordine di uccidere gli ebrei, l'avrei fatto personalmente. In guerra 100 morti sono una catastrofe. 5 milioni sono solo statistica. Eichmann viene condannato a morte per crimini di guerra. A Tel Aviv avviene l'esecuzione. Poco prima Eichmann si avvicina al capo del Mossad, lo guarda in faccia e gli dice, digrignando i denti, «Spero che tutti voi mi seguiate presto». Poi si dirige verso il patibolo. L'11 giugno 1962 viene giustiziato. Le sue ceneri sparse per le acque del Mediterraneo. L'uomo che gli ha dato la caccia, Simon Wiesenthal, vivrà fino all'età di 97 anni. Dopo l'esecuzione di Eichmann dirà La mia caccia ai nazisti si può fermare qui. Il cerchio del mio destino per me si è chiuso. Son morto con altri 100. Son morto, era un bambino passato per il camino, e adesso sono nel vento.